come comportarsi in rapporto ai bagni, la dissolutezza delle donne ai bagni. Che genere di bagni poi per queste donne? Sono stanze ben lavorate e compatte, portatili, coperte con tendine trasparenti, dotate di seggiole dorate e placcate d'argento, migliaia di oggetti d'oro e d'argento per bere, per mangiare o di cui servirsi per il bagno, nonché bracieri con il carbone. A tal punto è giunta la loro dissolutezza che esse addirittura banchettano e si ubriacano mentre ancora sono nel bagno. L'argenteria poi con cui si pavoneggiano è da loro ben esposta nei bagni, con un gran cattivo gusto. Forse lo fanno per mostrare, con questa ostentazione di cose superflue, la loro ricchezza, o forse piuttosto la loro maleducazione e capricciosa indipendenza, il cui biasimo peraltro ricade su quegli uomini senza virilità che si lasciano dominare dalle donne. E comunque con ciò fanno vedere che senza tutta questa moltitudine di suppellettili non sono capaci neppure di sudare. Infatti, le donne povere frequentano gli stessi bagni, eppure non hanno parte a tale lusso. In effetti questo sudiciume di sovrabbondanza ha un largo contorno di infamia, e di esso queste donne si servono come di esca per prendere all'amo quei miserabili che rimangono a bocca aperta quando vedono brillare l'oro. Così esse abbagliano i loro amanti senza cervello e dispongono maliziosamente ogni cosa per farsi ammirare da loro, i quali poco dopo le violentano nude. Davanti ai loro mariti non si spoglierebbero, poiché cercano di offrire una finta garanzia della loro verecondia, ma nei bagni lasciano che tutti gli altri che lo vogliono le guardino nude, mentre a casa se ne stanno rinchiuse. Qui invece non hanno vergogna di spogliarsi di fronte agli osservatori, come di fronte a mercanti di schiavi. Ma Esiodo raccomanda di non lavare il corpo in un bagno di donne. Ora, i bagni pubblici sono aperti sia agli uomini che alle donne, e perciò è per lussuria che lì si spogliano. Infatti, negli esseri umani il bramare scaturisce dal guardare, ed è come se nei bagni svanisse loro di dosso il pudore. Quelle poi che non arrivano a tal segno di svergognatezza chiudono fuori gli estranei, ma fanno il bagno insieme ai loro domestici. Si spogliano nude davanti ai servi e si fanno da loro massaggiare, concedendo così la libertà ad essi, che pur bramosi hanno una certa deferenza, di toccarle senza timore. Infatti, coloro che vengono fatti entrare con esse nei bagni hanno cura di denudarsi di fronte alle loro padrone, per poter osare ciò che il desiderio detta loro, cancellando con un malo costume il timore. L'importanza del pudore. Invero, gli antichi atleti, avendo pudore di mostrarsi nudi nella loro virilità, quando praticavano la lotta custodivano la pudicizia per mezzo di un perizoma. Queste donne, invece, spogliandosi insieme dell'abito e del pudore, desiderano apparire belle, ma senza volerlo palesano la loro bruttezza morale. Infatti, è principalmente attraverso il corpo che si manifesta la lussuria della concupiscenza, proprio come negli idropici. Il liquido, in sovrabbondanza, si attesta sull'epidermide. In entrambi i casi la malattia si riconosce dall'aspetto visibile. Bisogna dunque che gli uomini diventino per le donne un nobile modello della verità, avendo pudore di spogliarsi insieme ad esse e custodendosi dagli sguardi pericolosi. Chi guarda con troppa indiscrezione ha già peccato, dice il Signore. Perciò a casa bisogna essere pudichi di fronte ai genitori e ai domestici, per strada di fronte a chi si incontra, nei bagni di fronte alle donne, quando si è soli di fronte a se stessi e dovunque di fronte al Logos, che è in ogni luogo e senza di lui nulla è stato fatto. Solo in questo modo infatti si può stare senza rischio di cadere, se si è convinti che Dio è sempre presente davanti a noi. Solo il cristiano è ricco. La vera ricchezza è nell'anima. Alla ricchezza si può aver parte, ma in maniera dignitosa, facendone partecipi gli altri con amorevolezza, non con grettezza od ostentazione, né facendo degenerare l'amore per l'eleganza in amor proprio e cattivo gusto, affinché non si dica anche di noi: il suo cavallo o il suo terreno o il suo servo o il suo oro vale 15 talenti, ma egli stesso non vale che 3 monete di bronzo. Così, ad esempio, togli alle donne il loro ornamento e ai padroni i loro servi. Troverai che i padroni non differiscono in nulla dagli schiavi comprati, né per il modo di camminare, né per lo sguardo, né per il linguaggio, tanto assomigliano agli schiavi. Semmai si differenziano per il fatto che sono più deboli e sono stati allevati in maniera tale da essere più soggetti alle malattie. Si dovrebbe ripetere in ogni occasione questa, che è la più bella tra le sentenze, e cioè che l'uomo buono, temperante e retto si acquista un tesoro nel cielo, venduti i beni terreni e datone il prezzo ai poveri, egli trova il tesoro indistruttibile là dove non vi è tignola né ladro. Beato davvero colui che, seppure piccolo, debole e sconosciuto, è ricco però della più grande ricchezza. Se invece anche fosse più ricco di cinira e di mida, ma fosse ingiusto e presuntuoso, come quel tale che si godeva la sua porpora e il suo bisso e disprezzava Lazzaro, sarebbe un miserabile, vivrebbe una vita infelice e anzi non avrà affatto la vita futura. La ricchezza esteriore è pericolosa. La ricchezza, mi pare, è simile a una serpe. Se uno non sa prenderla senza esserne danneggiato, da lontano, in modo che non possa nuocere tenendo sospesa la bestia per la punta della coda, essa si torcerà verso la mano e la morderà. Così anche la ricchezza, avvinghiandosi a colui che la tiene, che sia esperto nell'usarla oppure no, è straordinariamente abile nell'aggredirlo e morderlo, a meno che egli, tenendola a bada con pensieri elevati, sappia servirsi di lei con cognizione di causa, in modo che per incantesima del Logos la bestia sia domata e l'uomo rimanga immune dalla passione della ricchezza. Ma a quanto pare è proprio quando si possiedono beni di valore superiore che non ci si accorge nemmeno se si è ricchi di beni materiali. Di grande valore non è la pietra preziosa, né l'argento, né il vestito, né la bellezza del corpo, bensì la virtù, che è il Logos datoci dal pedagogo per esercitarci nell'ascesi. Questo Logos ha in orrore il lusso e ci invita ad avere come nostro servitore il poter fare le cose da soli. Egli elogia la frugalità figlia della temperanza e dice: «Accogliete la disciplina e non l'argento, la conoscenza più che l'oro raffinato, poiché la sapienza è migliore delle pietre preziose e nessun oggetto di valore è degno di lei». E ancora: «Il mio frutto val più dell'oro e della pietra preziosa e dell'argento. I miei proventi sono migliori dell'argento scelto». Se dobbiamo fare una distinzione, diciamo che il ricco è colui che possiede molto, carico d'oro come una bisaccia infangata, mentre veramente degno è l'uomo retto, giacché la dignità nel gestire le ricchezze non è altro che giusto equilibrio nello spendere per la gestione della casa e nel fare donativi mantenendo il dovuto decoro. C'è chi semina e raccoglie ancora di più, e di questi è scritto: «Ha distribuito, ha donato ai poveri, la sua giustizia rimane in eterno». Perciò ricco non è colui che possiede e custodisce, ma colui che dona agli altri. È il donare, non il possedere, che ne fa una persona felice. Solo i cristiani sono veramente ricchi. Ora, ciò che viene donato con generosità è frutto dell'anima. In effetti, le cose veramente buone possono essere possedute solo dai buoni, e buoni sono i cristiani. Un uomo insensato o libertino non è in grado di percepire ciò che è buono né di possederlo, perciò solo i cristiani sono in grado di possedere i veri beni. Ora, nulla è una ricchezza maggiore di questi beni. Quindi solo costoro, i cristiani, sono ricchi. La vera ricchezza, dunque, è costituita dalla rettitudine e dal Logos, che è più prezioso di qualsiasi tesoro. È una ricchezza che non si accresce con armenti e con terreni, bensì è donata da Dio. È una ricchezza che nessuno può portar via, poiché il suo tesoro è soltanto l'anima. è il miglior possesso per chi lo possiede e rende l'uomo felice veramente. Colui infatti che si trova nella condizione di non desiderare nulla delle cose che non dipendono da noi e di ottenere invece quelle che desidera, anzi di ricevere da Dio stesso ciò che gli chiede e a cui santamente aspira, non è forse costui possessore di molti beni, anzi possessore di tutto, dal momento che ha Dio come eterno tesoro? A chi chiede, dice, sarà dato, e a chi bussa sarà aperto. Se dunque Dio non ci rifiuta nulla, tutto appartiene all'uomo pio. Buona provvista per il cristiano è la frugalità. Meschinità del lusso e bellezza della frugalità. Una vita di mollezze, in balia dei piaceri, è per gli uomini un miserevole naufragio. Una simile esistenza, voluttuosa e ingloriosa, è estranea a un vero amore della bellezza e ai veri nobili piaceri. Per natura, infatti, l'uomo è un animale dallo spirito elevato e venerando e alla ricerca del bello, essendo egli appunto una creatura dell'unico bello. Ma una vita vissuta per il ventre diventa per lui ignobile, vergognosa, turpe e ridicola. Non vi è nulla di più estraneo alla natura divina che l'amore per le voluttà, l'affannarsi per il cibo come gli uccelli e l'accoppiarsi alla maniera dei porci e dei caproni. Credere che il piacere sia un bene indica una totale ignoranza di ciò che è il bene. L'amore per le ricchezze svia l'uomo da un retto regime di vita e lo spinge a compiere senza arrossire azioni vergognose, pur di avere la possibilità di mangiare ogni cosa come una bestia, di bere e di concedersi sempre e ovunque piena sazietà nel sesso. È per questo che il ricco assai difficilmente erediterà il regno di Dio. A che scopo si predispongono tutte queste pietanze? Per saziare un solo ventre? Le cloache mostrano chiaramente il sudiciume della voracità. In esse, infatti, il ventre riversa il superfluo del pasto. A che scopo radunare tanti coppieri per il vino quando ci si può saziare con un solo calice? Perché i guardaroba? Perché gli ori? Perché i gioielli? Queste cose sono preparate per i ladri e i malfattori e gli occhi avidi, ma la scrittura dice: l'elemosina e la fedeltà non ti abbandonino mai. Abbiamo un buon esempio di frugalità in Elia il Tesbita. Si sedette sotto una ginestra e l'angelo gli portò del cibo, pane cotto alla cenere e una brocca d'acqua. Tale fu il pasto che il Signore gli fece avere. Perciò è necessario che noi, essendo in cammino verso la verità, siamo pronti e senza impedimenti. Non portate, dice il Signore, borsa, né bisaccia, né sandali, ovvero non vogliate possedere una ricchezza che può essere custodita solo in una borsa, e non riempite i vostri depositi quasi ad accumulare il grano in una bisaccia, ma piuttosto fate partecipi bisognosi. Non accaparrate armenti e servitori, detti qui allegoricamente sandali da viaggio per i ricchi, poiché sono essi che portano i pesi. Bisogna quindi eliminare la moltitudine di suppellettili, le coppe d'argento e d'oro e la folla dei servitori, ricevendo invece da parte del pedagogo come belle e venerabili compagne l'autosufficienza e la frugalità. Bisogna camminare in armonia con il Logos anche se si hanno moglie e figli. Una famiglia infatti che abbia imparato a seguire un saggio viandante non è un ostacolo. Le ricchezze sono buone se servono alla generosità. Bisogna disporre che anche la donna affezionata al marito percorra il cammino della vita in modo simile a lui. Entrambi devono portar seco come buon equipaggiamento per il viaggio verso i cieli la semplicità, unita a una casta gravità. Invero, come il piede è misura della scarpa, così il corpo è misura di ciò che ciascuno può possedere. Perciò il superfluo, quel che chiamano gli ornamenti, e le suppellettili sono il fardello dei ricchi, non il decoro del corpo. Colui dunque che ad ogni costo cerca di ascendere ai cieli deve portare con sé, a guisa di buon bastone da viaggio, la beneficenza, e facendo partecipi i tribolati dei suoi beni, poter egli stesso poi partecipare al vero riposo. La scrittura dichiara infatti che un uomo riscatta la sua anima con la sua ricchezza, cioè se ha ricchezze si salverà facendone partecipi gli altri. In effetti, come le sorgenti che per natura abbondano d'acqua, se vi si attinge fino ad esaurirle, continuano però a zampillare raggiungendo di nuovo il loro livello primitivo, così la generosità nel dare è una benigna fonte di amore per l'umanità, e donando da bere in spirito di comunione a chi ha sete, si accrescerà nuovamente e tornerà ad essere piena, proprio come nelle mammelle che allattano o sono munte, il latte continua a sgorgare. Così colui che possiede il Logos Dio Onnipotente non ha più bisogno di nulla e non gli manca mai alcunché di ciò di cui necessita. Il Logos, infatti, è un possesso che esclude ogni bisogno ed è la fonte di ogni abbondanza. Se poi qualcuno dicesse di aver spesso visto un uomo giusto mancare del pane, cosa rara questa che accade là dove non vi sono altri giusti, legga comunque quel che sta scritto. Non di solo pane vivrà il giusto, ma di ogni parola del Signore, il quale è pane vero, pane dei cieli. Quindi l'uomo buono non è mai indigente fin quando mantenga salda la sua fede in Dio. Egli infatti ha la possibilità di chiedere a Lui e di ricevere dal Padre tutte le cose di cui ha bisogno e di godere dei propri beni purché si conservi fedele al Figlio. Perciò ha anche la possibilità di non sentire alcuna mancanza. Questo nostro Logos che ci educa ci dona la ricchezza e non vi è alcun motivo che chi ottiene da Lui ciò che lo rende senza più bisogni non sia ricco. Chi possiede tale ricchezza erediterà il regno di Dio.